But let's go back now to Lorenzo's request. Listen and repeat. Cerchiamo degli occhiali da sole. Imagine you're with a friend and the two of you are looking for a bank. So when someone asks, "Che cosa cercate?" "What are you looking for?" Dite che cercate una banca. Say that you're looking for a bank. Cerchiamo una banca. Ready? Che cosa cercate? We're looking for a post office. Cerchiamo un ufficio postale. We're looking for the bus stop. Cerchiamo la fermata dell'autobus. We're looking for a baker's. Cerchiamo un forno. We're looking for the railway station. Cerchiamo la stazione ferroviaria.